English Bit di Giulia Crivelli. Crack. The Obama administration cracks down on payday lenders. La versione americana dell'Huffington Post, tra i siti di notizie americani più autorevoli, titolava così un articolo su una recente misura del presidente Barack Obama. Notiamo subito un false friend. Administration non significa amministrazione, bensì in questo caso esecutivo. La traduzione è quindi: il governo Obama, l'esecutivo Obama, prende di mira i prestiti del giorno di paga. I payday loans sono una particolare forma di prestito, loan, con la quale una società concede un prestito di piccole entità ma con un tasso di interesse alto, e il finanziamento viene poi riscosso nel giorno in cui il richiedente riceve lo stipendio, il giorno di paga, payday. Ma la parola che ci interessa è crack, da cui il verbo to crack down, regolare, che si riferisce a uno sforzo da parte della legge o delle forze dell'ordine di colpire attività criminali. Police are cracking down on drug dealers. La polizia ha preso di mira gli spacciatori di droga. Molti altri phrasal verbs. To crack on significa lavorare sodo su qualcosa. If we crack on with the painting, we should finish today. Se ci diamo dentro con la tinteggiatura, entro oggi dovremmo finire. Poi c'è to crack up, ammalarsi, cedere. You'll crack up if you carry on working like this. Ti ammalerai, mentalmente o fisicamente, se continui a lavorare a questi ritmi. Senza aggiungere proposizioni, to crack vuol dire semplicemente rompersi, da cui anche il nome dei crackers, che per gli inglesi sono biscotti salati, friabili, che si rompono. Il marchio di orologi Tagore, per esempio, ha di recente scelto proprio questo verbo per il suo claim: don't crack under pressure. Non cedete quando siete sotto pressione, si legge sotto le immagini di testimonial come Cara Delevingne, Cristiano Ronaldo o Chris Hemsworth. To crack vuol dire però anche trovare una soluzione. He cracked the enemy's code, trovò il codice segreto del nemico. Crack-brained vuol dire invece improbabile. Una crack-brained idea è un'idea folle destinata all'insuccesso. Forse anche per questo il sostantivo è stato usato per indicare quella terribile droga nata negli anni Ottanta negli Stati Uniti, che ancora oggi è una delle più letali mai nate in un laboratorio.